È uscito la settimana scorsa Sdeng, il quarto album delle Altre DB, uscito 4 anni dopo il lavoro precedente. Noi ne parliamo con Giacomo Gelati, che è al telefono con noi. Ciao Giacomo. Ciao a tutti, grazie mille della chiamata. Allora, Sdeng è un album da un titolo onomatopeico in un certo senso, no? Esattamente, ci piaceva quest'idea, ci abbiamo ragionato un po', devo dire la verità, però a un certo punto è stato proprio un'illuminazione, è uscito molto spontaneamente parlando tra di noi, Sdeng, proprio il rumore del palo in faccia, mi ha detto ma è perfetto per il titolo dell'album, poi dopo ci abbiamo ricamato sopra tutta la narrazione, però suonava veramente bene. Avete preso dei pali in faccia? Parecchi, sì, cioè pali sia fisici sia metaforici, mettiamola così, diciamo che è la narrazione di appunto tutti che una persona può prendere nella vita, e ci volevamo scherzare sopra, quindi abbiamo raccontato un po' di amori nei quali si finisce col prendere un palo in faccia, rapporti genitoriali, rapporti interpersonali e soprattutto anche lavorativi, dato che appunto nell'ultimo anno e mezzo, purtroppo in attesa di tornare dal vivo, siamo stati costretti a lavorare alacremente, quindi insomma abbiamo ironizzato anche sul lavoro. A proposito di appunto del vostro lavoro, l'album ha solo una traccia in italiano, poi ne parliamo, però sì, volevo chiederti se questo, come dire, se cantare in un'altra lingua rispetto all'italiano ha rappresentato e rappresenta un ostacolo per voi, cioè per affermarvi nel panorama musicale del nostro paese. È un ostacolo grande come una scogliera, è veramente, sì, è sempre stato un grande ostacolo, ma ci viene abbastanza semplice scrivere in inglese, ci ha sempre insomma dato la possibilità anche di esprimerci fuori dai confini nazionali, insomma abbiamo viaggiato molto negli ultimi 10 anni, però sì, diventa sempre difficile poter narrare con più leggerezza queste cose quando si è in Italia, e quindi di fatto è stato più un problema che altro. Entrando nel merito dell'album, io ho trovato una recensione con una frase che mi ha colpito molto e ti chiedo se pensi che sia giusta, se vi rappresenta. Parla di Sdeng come di un indie pop rock trasversale, fresco e dal mood spensierato, vagamente americano, sia West Coast che new yorkese, di stampo anni zero. Cosa ne pensate? Allora, ho letto diverse robe che sono uscite in questi giorni e sinceramente non mi riconosco in nessuna di queste cose, o meglio, nel senso, abbiamo concepito l'album in una maniera completamente diversa, dove insomma registrarlo e scriverlo come si faceva una volta, quindi l'album è stato fatto proprio come negli anni 60, e quindi più che un imprinting anni 2000, sì, di derivazione sicuramente americana, è più una roba di almeno 30 anni prima, secondo me 30-35 anni prima e basta. Quindi insomma questa recensione, vedi, è un altro Sdeng su di noi, mettiamola così. Beh, però insomma è uno Sdeng positivo, dai. No, assolutamente, infatti sono molto contento di questa cosa. Ecco, a proposito di come si faceva una volta, sono passati 4 anni dal vostro lavoro precedente, che nei tempi attuali, diciamo, di produzione musicale è un periodo molto lungo. Abbastanza, devo dire la verità, abbastanza. Sono stati anni comunque di concerti, perché insomma, a parte la pandemia, sono stati anni abbastanza intensi di attività dal vivo, poi comunque insomma ci siamo costruiti la nostra sala prove eccetera, e ci siamo detti proprio che doveva essere una gestazione assolutamente anarchica, quindi non ci siamo imposti delle regole, delle tempistiche, e quindi è stato forse il bello di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, sia in sala prove sia dopo al Vacuum Studio con Bruno Germano, proprio grande relax, dovuto appunto anche all'ambiente circostante, perché la sala prove l'abbiamo costruita in mezzo alla campagna e lo studio di Bruno Germano è in mezzo alla campagna, quindi volevamo delle tempistiche da ciclo campagnolo, fondamentalmente, quindi da ciclo delle stagioni. Abbiamo lavorato con estrema lentezza proprio per la regola iniziale che ci eravamo dati di non prefiggerci tempistiche, frette o ansie di alcun tipo. Come dicevo prima, in Sdeng c'è un unico brano in italiano che è una featuring con i Regaz dello Stato Sociale. Esatto, per la precisione, più che con tutti loro, è stata fatta con Checco, con Francesco Draicchio, col quale l'anno scorso, l'estate scorsa, ho lavorato al suo disco, dato che quest'anno loro hanno rilasciato questo quintuplo album, insomma hanno lavorato tutti separatamente. Io insomma ho lavorato insieme a lui e insomma, dato che ci conosciamo da una vita per affetto e quant'altro, avevamo questo pezzo che appunto è una samba, inizialmente era stata concepita in portoghese ma ci sembrava veramente un po' troppo. E allora abbiamo detto: dai, ma ragazzi, ma proviamo a farlo in italiano. Dai, beh, insomma, abbiamo chiamato Checco e lui è stato molto, molto carico e molto carino ed è venuto a cantarla. Ci siamo divertiti molto e secondo me, insomma, è venuto fuori una bella traccia. Ecco, a proposito di band bolognesi, c'è un'altra traccia, l'ultima, quella che chiude l'album, The Ronsome Mixtape, che richiama una band, mi hai riportato un po' indietro negli anni. Grande, sì. Ah, anche lì abbiamo fatto un ragionamento analogo, nel senso che insomma è stato un album anche di collaborazioni, nel senso che ci sono alcune tracce che vedono la partecipazione di Luca Lovisetto di Baseball Greg, della Boba Ilaria Ciampolini, che suona con Poppix, Manuel Castro e via discorrendo. E poi abbiamo detto: un pezzo con le trombe tipo i My Awesome Mixtape. Allora li abbiamo contattati, vabbè, uno insomma sta negli Stati Uniti d'America, l'altro è impegnato in studio, eccetera. Mauro, il cantante che fa il panettiere ed è quello che ci sembrava potesse avere più tempo libero, insomma l'abbiamo vezzeggiato per mesi, poi alla fine purtroppo non è riuscito a venire a cantare il pezzo e niente, volevamo omaggiarli con più o meno quelle sonorità, insomma non c'è la componente elettronica che avevano loro, ma ci sono le trombe, quindi volevamo, abbiamo fatto anche il coro, insomma volevamo omaggiarli così e forse ci siamo riusciti. Sì, direi di sì. Ascolta, ti volevo chiedere adesso invece di quello che succederà da qui in poi. Porterete l'album in giro, visto che si sta riaprendo un po' tutto? Avete già delle date? Sì. Allora sì, stiamo, insomma, abbiamo atteso fino a questo momento e si naviga purtroppo o per fortuna un pochino a vista, quindi al momento abbiamo tre date, una il 5 di giugno a Milano insieme alla Para, poi saremo a Bologna il 18 di giugno al Ponte Lungo e il 22, quindi pochi giorni dopo, alla Nabì di Marina di Ravenna. Poi insomma speriamo che si intensifichi un pochino l'attività dal vivo, però appunto in questo momento si sta dando priorità più insomma headliner, gruppi più grossi, giustamente. Noi siamo lì in attesa di capire dove ci possiamo infilare e vedremo, insomma. Certo, comunque insomma a Bologna abbiamo l'occasione di vedervi, oppure al mare, appunto a Marina di Ravenna. Assolutamente, d'obbligo scendere, dai. Sdeng, l'ultimo lavoro delle altre DB, grazie mille Giacomo per avercelo così un po' raccontato e in bocca grazie al lupo. Grazie mille a voi, crepi il lupo, è stato un gran piacere.